c'hai? Cosa c'hai? Non mi sento bene, no. Come mai? Ma dove sei? E io. Si può lo stesso. Adesso sto facendo qualcuno, se stavi prendendo piano, pensavo di anche 30 kg. Che cazzo? C'avevo una gastroenterite, adesso sto facendo la cura di coso, di acido folico e il resto, vitamine, quello che prima mangiava e andavo direttamente in bagno, infatti va subito in bagno a diarrea. Adesso vado male, già 4 giorni che è finita questa questa cagata, meno male. E quindi piano piano adesso sta mangiando, oggi gli ho fatto pasta integrale e le pennette e ha mangiato quelle. Mi cazzo, io andavo, via. Io sto aspettando che mi chiamano per ricoverare. Ovvia, però la verità, lascia perdere il cazzo, se Simone è andato a pronto soccorso, ci sono più fatti l'altro giorno, la settimana scorsa, ci sono solo due medici, ci sono a pronto soccorso, quindi figurati quanti ce ne saranno nei vari piani. E io ho già fatto 3 ricovero, a giorno mi chiameranno. Speriamo, almeno sei tranquillo. Sì, capito. Oh yeah. Almeno ti danno la cura come si deve e puoi rientrare a casa. E speriamo che vada tutto bene, mi devono fare un intervento, capito? Sì, va bene, l'importante è che vada tutto bene, poi del resto, hai capito, il discorso è quello lì. Siamo tutti messi male da quando abbiamo fatto questo cavolo di vaccino. Ci abbiamo tutti una volta male, sembriamo. Sì, a me lo dici. Vabbè, da Antonello, sono in ascolto io che non mi sento tanto bene, non ho tanta voglia. Va bene, dai, già sono in ascolto anch'io, già non c'è problema. Tanto vi sto mettendo, sto costruendo un'antenna per macchina, sto costruendo. E mi sto divertendo un pochettino per fare qualche cosa, mi annoio come monti qua. Chiesa, ancora Alcaraz a cercare il link junior più all'interno del campo. Ora il giocatore inglese Alex Sandro sulla sinistra, invece è rimasto Illis quasi da ala, contrastato Pirindelli, che resta lì un dribbling, poi un altro, una finta da parte di Illis, non ha combinato molto, poi alla fine Valentino Carboni a rubare il pallone a Fagioli che non commette fallo, e Valentino Carboni lancia il contropiede di Mota Carvaglio, in mezzo si fa vedere Ferreira, ma viene fermo il giocatore brasiliano, il capitano, non oggi perché per ragioni affettive la fascia è stata affidata ad Alexandra, attenzione da Juventus, Tomini che non riesce a trovare la deviazione vincente, sotto porta e Sorrentino blocca il pallone, per un attimo la partita diventa più vivace, più divertente, 24esimo Juventus 0, Monza 0. E però grande autorevolezza di Danilo nel fermare l'attaccante del Monza, Mota Carvaglio, è stato fermo, no? Ha steso le sue mosse, poi gli ha sottratto il pallone, è stato poi bravo. Gran gol, picchia Marchietà da parte di Federico Chiesa, vince un rimpallo, fai con il sinistro, potente, bravo la rete, secondo gol consecutivo, non in campionato, Juventus 1, Monza 0, ha segnato Chiesa. Il pallone alla sinistra di Sorrentino, anche a tutta la parte del difensore bianconero nel posizionamento, è riuscito a beccare Mota Carvaglio che era lì in marcatura su di lui, anticipato di nulla Alexandro, e adesso raccoglie l'applauso e l'ovazione sulla Monza con il 14esimo gol in campionato con la maglia bianconera per Alex Sandro, non aveva segnato in questa stagione, comunque abbastanza difficile, anche condizionata da alcuni problemi fisici per l'ex giocatore del Porto, ma ancora Danilo in anticipo a recuperare su Gagliardini, ma il soso Danilo mentre sbaglia qui. Le cuffie e ascolto una e l'altra e sempre a questo va benissimo, e allora non ho più sentito Marino, boh, è molto libero da quando è andato in pensione, non fai vedere di lavorare anch'io. Io lo stesso, io lo sono minimo quasi un anno che non ho sentito. E da fare no, sono un mezzetto che non lo stesso, però boh, non si è sentito, prima entrava molto spesso, adesso invece è morto in Libia, evidentemente c'è troppo da fare, allora non entra là, o si è staccato, si sta rilassando adesso, ma vedrà cosa fare, per carità. Bene, sto dicendo. Giovanni, benissimo. Va bene, va benissimo. Non gli l'ho mandata la filmina a quello, lo lascio così, non fa niente, già riesco a capire ugualmente, anche se si cacciera quella lì dentro non mi interessa, l'importante è che va bene l'apparecchio, capito? Ah, ma sembra che è normale così, non c'è niente. Beh, perché si cacciera quando abbassi la portante. Io ho visto che è tutto a posto, perché io anche io ce l'avevo con una radio che quando si cacciava si cancellava qualcosa da segnale, si poteva dire, là. Oh no, siccome c'è la linea sempre accesa, sì, è sempre accesa da 1 a 30, poi poi più in su c'è i quadretti che vanno e scendono, no? Come quando parli, per esempio adesso a portate multe a 5, se parlo ce ne fa anche a 9 e 20, capito? Ma qua si cancellano i numeri da 1 a 30, si cancellano i quadretti, camminano, capito? Ecco perché non mi interessa, capito? Lo lascio così e basta. Ma non c'ha niente, Giammarì, comunque c'è bene, c'è stata la modulazione, c'è benissimo. Si va a dare quando il montaggio, non ha cose di più, non ha cose di più. Ui, non ne vale più la spesa, la pena di spendere su, non ne vale più, cosa ne spendo a fare? Perché qua c'è fatto, anche magari se lui avrebbe detto mandamelo su, se devo pagare, dopo devo ripagare per portarlo giù. Guarda, cazzo me l'ha costato il caparecchio, capito? Per cui lascio così, l'importante è che funzioni bene, per cui sta funzionando bene, tutto tranquillo, e per cui non mi interessa quello di niente. Già riesco a capire ugualmente a quanto fa, capito? No, ma già va bene, già va, non c'è niente di anormale, di rotto, funziona benissimo. Già va bene, va bene, cazzo. Perché dopo, quindi non si fa per fare tutto, oh yeah. E così è, boh, oh yeah, yeah. Oh yeah. Caldo sta facendo, no? Sì, Giovanni, caldo veramente, cazzo stamattina ha fatto Eva, quando si è uscito la settimana, ma Eva, un lampi, oh yeah, per carità, verso le 10 da quando è stato uscito il sole, cazzo mi aggaggio. E tu carotte lampeggiando e suonando, cazzo, da che parte ho sentito sull'altro coso dice che ha grandinato molto, però non so dove, poi è sempre in Sardegna, dice che ha fatto la grandina, non finirà più, dice, quei fuori per forza, perché adesso questi temporali così è più o meno sono state grandi, hai capito? Qua ha fatto acqua, magari mi ha più forse ha fatto grandi forze. No, comunque le ha fatto, ieri notte alle 3 è iniziata a piovere, dalle 3 del mattino è iniziata a piovere, fino alle 9, fino alle 9 ha fatto temporale, ma Eva, ma cazzo ne ha fulmini, lui. E tu eri dentro il gabbiotto? No, in macchina. Allora hai sentito un rumore. Dentro il gabbiotto non c'è corrente, non c'è corrente, Gio Mari. Devi attaccare il gruppo, forse per la macchina che mi televisione. Abbasso lo sedile un poco. Grazie, fa bene ugualmente, dai. Per carità. Devo chiudere che sto facendo cose, dai, ci sentiamo alle prossime, ok Manuel? Va bene, dai, ciao Giovanni, già ci sentiamo a casa più tardi, se senti su 23, dai. Sento ancora, dopo le 7 già, allora. Ciao.